Stavo con la vita con i miei, tutto ok. Se non fosse che la vita mi ha dato guai, per la testa ho gad, ma per la maglia resta. Stavo con la tipa e con i miei, faccio hey god please Mary Jane, ma non farei mai più passare altri guai, ma per la maglia resta. Ok, ti ancora supreme, sono anch'io misterioso. Anche se non porterò una maschera da scemo, sei peggio di quello che porta sopra in barletta. Mi rileggo chat di Snapchat e non sai chi mi ha riscritto ieri sera. La mia ex qui è quella pazza vera, dice che vorrebbe tornare a fare la serie, ma non so come dirle no no no no, senza fare bla bla bla bla. Senso che esagero poco, accendo tre faccio yeah, yeah. Cambia, mi chiedono sempre cambia, io rispondo ma che cambio, se mi hai cambiato domanda. Oh mio Dio, sbiscio una palma, oh mio Dio, sbiscio una palma. Tu so che solo la minchia, non sei uomo per la barba. Non sei uomo proprio, non sei uomo proprio, non sei uomo per la barba. Non sei uomo proprio, non sei uomo proprio, come fai con quella faccia? Stavo con la guida con i miei, tutto ok. Se non fosse che la guida mi ha dato guai, per la testa ho di cose pure se non mi trovo sono sballo che provo sono ancora in bad trip. Salto le cose pure te, non mi trovo come la massa di coglioni, faccio un backflip. Ho un bel tic, ho un bel tic, ho un bel tic. Se non fumo questa è la mia scusa, pezzi. Levo la sicura flow e sono un cecchino. Mi levo la cinta, tu mi fai un bel beep. Ma mi sento un pezzo di scia. E alla fine mi chiedo se scopa come rapa. Sono così fuori che non penso all'Italia. Sono come tutti quei politici di merda. Fare rima a volte come prendere aria. Qualcuno dovrebbe farne a meno, quindi bella. Quando il gatto non c'è topi balla è una festa. Io sono dorato, tu fai sì con la testa, sì con la testa, sì con la testa. Da bambino mi chiamavo piccola bestia. Io che volevo tutte quelle paranoie, mo lo vedi su un muro, quindi svinco la testa. Stai zitto, ehi Nike, l'hai visto? No, visto cosa ce n'ho visto tra me e questi. Qui non è Cristo a salvarmi, ma il mio disco Raptus. Io non ho capito bene chi tu sei, prendi ripetizioni, sfonda abitazioni, vengo da lezione. Questi scemi do le direzioni come tradizione. Non mi vedi in televisione, ancora non lo vedi, coglione, che questo flow ha rotto il cazzo. Verità bro, sono perso, cuore aperto, mi vedi adesso. La storia è la stessa, io che piscio addosso a voi, nulla di diverso, non mi diverto nemmeno. Stavo con la guida con i miei, tutto ok. Se non fosse che la guida mi ha dato guai, per la testa.